leggenti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, e leggenti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Gentil, passerà.